Non c'è rischio zona gialla in questo momento perché noi siamo all'8,4-8,5% sia dei reparti Covid, che ricordo hanno un limite di guardia del 15%, e delle terapie intensive che invece hanno un livello di guardia più basso del 10%, però siamo ancora sotto a questi livelli di guardia, pur con un'incidenza molto elevata come del resto in tutta Italia. Il 73-75% dei ricoverati in terapia intensiva sono persone non vaccinate, quindi l'appello che rivolgo a tutti coloro che possono, anche solo presentandosi agli hub, vaccinarsi come prima dose, di farlo al più presto, perché in questo momento, in questo periodo, la pandemia sta colpendo prevalentemente con forma grave della malattia le persone non vaccinate, anche non diciamo anziane. Però noi stiamo vaccinando anche in centri più piccoli in tutta la regione, stanno partendo le vaccinazioni in farmacia, in quasi 300 farmacie in regione, e stanno ovviamente continuando a vaccinare anche i medici di medicina generale, sia nei loro ambulatori, sia dando una mano appunto ai centri vaccinali della regione. Ricordo che ci si può rivolgere al proprio medico di medicina generale perché fa parte del contratto quello di dover vaccinare la popolazione. Sono arrivati un po' di perplessità rispetto all'obbligo di Green Pass sugli autobus, perché dicono giustamente gli studenti non hanno l'obbligo vaccinale, ma l'obbligo di Green Pass sugli autobus rischia di essere un ostacolo per loro per andare a scuola. Oggi hanno scritto anche una lettera al governo. Chiedevo come si può riuscire a, diciamo così, conciliare queste problematiche. La questione che immagino venga posta in sede governativa dai ministeri competenti. Quello che noi diciamo dal punto di vista della sanità è che ovviamente nei mezzi pubblici, laddove c'è in uno spazio ristretto una concentrazione importante di persone, o queste persone hanno una protezione adeguata, penso all'FP2, oppure il rischio di contagio è molto elevato. Quindi da questo punto di vista la mascherina sugli autobus è obbligatoria. Io ho chiesto che vengano intensificati i controlli. Per quello che riguarda la politica di estensione del Green Pass, è una politica del governo e ovviamente aspettiamo la decisione del governo.